Ben ritrovate, puntata del 30 dicembre 2018, ancora siamo nel 2018. L'ultima del 2018, siamo gli esatto, ultimi. Esatto, siamo gli ultimi. Siamo sempre gli ultimi. Io sì, quindi pensano nel mio comunque. Sì, sì, puntata... Allora, del 30 dicembre, quindi siamo quasi nel, cioè, non è vero, siamo quasi a fine anno, ma siamo in piene vacanze e ferie e feste, che in realtà sono uno stress, madonna. A me è venuta un'ansia, veramente. Sì, cioè, guarda. Vabbè. Era meglio quando si lavorava. No, perché uno si concentra tutto, devi fare tutto in quello, perché poi quello va via, quello non c'è, ma io ci sono solo questi giorni. E mangia. Ci sparsi per il mondo che tornano, li devi vedere per forza in quei giorni lì. Praticamente la vita sociale di un anno è vero, concentrata è vero. In 10 giorni. È vero, perché poi... ho letargo tutto l'anno e poi in questi 10 giorni ci dobbiamo attivare. Ma poi si parla tanto delle fughe dei cervelli, ma poi i cervelli tornano per le vacanze di Natale. Che fuggono, ma tornano. È così. Cervellone. Va bene, basta. Ora che abbiamo dato un po' di perle di saggezza, da tram, ora che vi abbiamo fatto sentire sul 23, allora vi portiamo invece alle cose un po' più serie. Perché, come tutti sapete, abbiamo saltato domenica scorsa, perché ovviamente le feste che si deve fare. Però tutti sapete che festeggiamo in realtà tutti quanti, cioè tutte le luminarie in giro, no? Ci sono le lucine, ci sono gli alberi addobbati, cioè perché festeggiamo il solstizio d'inverno. Noi sì, cioè è evidente. Un po' il mezzo inverno. Tutti certo. Festeggiano quello, no? Cioè, certo. Secondo me tutti... credete di festeggiare un'altra cosa, ma in realtà state festeggiando questo. Sì, c'è il babbo solstizio d'inverno. Certo. Tutte quelle cose lì. E quindi, siccome tutti siamo molto appunto concentrati in questi festeggiamenti, anche noi alla Fuga del Gatto diamo il nostro contributo. E quindi, anziché fare una puntata natalizia, che ce ne siamo bellamente, l'abbiamo bellamente zompata, facciamo la puntata sul solstizio d'inverno. Esatto, tanto perché sempre famo lo strano, e noi siamo così, siamo pagani nell'animo, ci rifiutiamo di accontentarci di questi miti sincretici, di questi... quelle cose lì. Di questi sovrapponimenti tra il cristianesimo e che ha preso di qua e di là. E la Perugina. E la Perugina, e l'alberello, e il Babbo Natale inventato dalla Coca-Cola. Non ci interessa, noi andiamo all'origine, andiamo alla fonte, e all'origine mezzo inverno era... e solstizio è di fatto. Anche perché, insomma, dentro l'inverno ci siamo zompati con tutte le zampe, perché esatto. Fa un bel freddino, sì. Ce ne siamo accorti, e quindi iniziamo, in realtà vabbè, potevamo fare una scaletta pressoché immensa. Beh, sì, abbiamo abbastanza scremato, abbiamo trovato alcuni pezzi che non sono neanche troppo famosi, alcuni proprio probabilmente sono assolutamente sconosciuti ai più. Non tutti, devo dire, forse pochi, ecco, in realtà. Sono abbastanza, dai. Insomma, sì, sì. Abbastanza... In realtà, sì, diciamo che abbiamo messo un po' tutto. Veniamo dalla puntata della musica abusata, quindi... E quindi, insomma... Lì eravate messi comodi, c'era proprio la roba più hardcore. E infatti qui adesso... Siamo andati un pochino più su... Facendo dei paragoni, ecco, adesso siamo un po' più... Siamo sul difficile in confronto alla musica abusata, sì. Cioè, confronto a Per Elisa, qui siamo sul difficile. Ma non vi spaventate, perché noi vi guideremo... In questa passaggiata di mezzo inverno, in questo Winter Rise, come la mia erudita collega qui. No, perché ce l'ho scritto davanti, ovvio, non per altro. Certo. Quindi partiamo subito a bomba con un pezzo di Tchaikovsky. Sì, giusto? Sì, che sì, con l'inverno sì. Se la diceva, perché veniva dalla Russia, se non lo sapeva lui com'era l'inverno. Esatto, lui sapeva, sapeva perfettamente. Nessuno. Molte delle sue opere sono molto appunto invernali, infatti, molto di che lo sono poi state insomma sempre un po' collegate. Ah, così, ecco, sì. Piotr Ilic, conosci laghi, cigni, insomma, lui era un ragazzo così. Eh sì, era un po' così. Piotr Ilic Tchaikovsky, appunto, che già c'ha un nome abbastanza complicato per noi. E sì, ha descritto effettivamente, come dicevi te, un po' quello che vedeva: le lande, la neve, gli animaletti disperati che cercavano dei licheni. Cercavano. E l'ha fatto in particolare nella sinfonia numero 1 in sol minore, opera 13, detta Sogni d'inverno, perché effettivamente l'inverno molto spesso nella musica è stato un po' accomunato a dei temi onirici, perché i manti innevati, bianchi e questa coltre di neve che scende, evidentemente a molti ha ispirato il sogno, un po' il tema del sogno, Chiaro. l'addormentarsi, il torpore, ecco, anche deriva, che in certo modo è anche quel torpore naturale, perché la natura effettivamente quello fa, si addormenta Di per una fatto, stagione. esatto, E quindi quindi non si risveglia. sì, c'è evidentemente il tema del sonno e di conseguenza anche il tema del sogno. Quindi Sogni d'inverno, una sinfonia in realtà molto sofferta questa di Tchaikovsky, perché non era contento, non era soddisfatto. Tra l'altro dice che la compose, cioè in realtà ci ha lavorato tantissimo, e per la prima volta e anche l'ultima l'ha composta quasi tutta di notte. Ecco, a proposito. E questa cosa là poi non l'ha più rifatta, ha detto no, sono pazzo, non la rifarò mai più, perché comunque tutto questo estro creativo di notte lo scombussolava tantissimo. La genesi appunto di quest'opera fu tormentata, non gli piaceva, non piacque neanche ai suoi maestri, insomma un po' una tragedia. Poi la Pensa. riscrisse. E quindi in realtà quella che ci è arrivata adesso è una sua riscrittura di diversi anni dopo, insomma, un qualcosa di sofferto che però poi alla fine effettivamente non ha rinnegato Tchaikovsky, in qualche modo ha detto vabbè sì, è stato un parto, però Vabbè, è comunque anche la cosa peggio di Tchaikovsky nel fra dolore. l'altro, Cioè, cioè voglio dire, non è come se la faccio io, nel no, senso. no, Cioè, anche se infatti, proprio va male, no, ma infatti anche a comunque. suo dire ho detto no, vabbè, poi alla fine Vabbè, dai, il insomma dolore, ce la possiamo stare è là. venuta benino, Vedi, ecco. Tchaikovsky. E io e la Mari, nelle nostre peregrinazioni d'estate, quando non c'è nessuno, che ci andiamo a peregrinare, abbiamo spesso incontrato la casa di Tchaikovsky. Così, tanto per farvi fare un po' i cavoli nostri, e chi se ne Certo, frega. no, Cioè, ora poi si immaginano che anche noi noi andiamo, andiamo, chissà. ed è così peraltro, andiamo sotto casa di Andiamo sotto Tchaikovsky casa a di Tchaikovsky. bussare. C'è chi va sotto casa di Vasco, e io e la Mari Si siamo sotto suona. casa di Tchaikovsky, si prova. Perché forse non tutti sanno che, ma molti sanno che nelle sue, così, nei periodi in cui visse anche a Firenze, soggiornava anche a Firenze, proprio in una piccola stradina dal viale dei Colli porta al Forte Belvedere, quindi mica scemo. E c'è la targa, infatti, così qui sostò, qui visse. Cari Un miei, gran bel posto, sì, devo un dire. gran bel posto, mica scemo. Quindi l'inverno va bene, però Però mai la insomma, primavera vada Firenze. al forte. E quindi epoca di Va composizione bene. 1866-68, perché appunto un parto di 2 anni, e poi una revisione dopo, molti anni dopo, nel 1874, quindi quasi 10 anni dopo. È una composizione divisa in 4 movimenti, e questi 4 movimenti sono anch'essi delle visioni di questo sogno d'inverno. Quindi hanno dei nomi evocativi. Noi in realtà ci ascolteremo soltanto il secondo movimento, perché la sinfonia di per sé dura tantissimo, dura mi sembra 50 minuti, quindi insomma tantissimo, tantissimo per noi, per il tempo che ci è concesso a Radio Wombat, e quindi non potevamo mettervela in integrale. Vi facciamo ascoltare il secondo movimento, la cui descrizione è terra desolata, terra nebbiosa, o per un po' andando un po' più sul tecnico, le indicazioni di movimento sono adagio cantabile, ma non tanto. Ma Che non fa tanto tanto, ridere a me questa cosa quando è buttano queste un po' cose. adagio, ma non, anche non troppo. Sì, però ma non tanto è un po' più Non suo, tanto, no? Un po' più personale. adagetto. Allora, quindi dicevamo, il secondo movimento intitolato Terra desolata, terra nebbiosa, che già, insomma, ci dà degli indizi, è un tema musicale che è quasi un notturno di fatto. Lo sentirete, c'è una viola, ci sono i violini, ma c'è soprattutto un oboe che in tanti hanno associato all'inverno, è un po' questa voce sola. L'obo è un po' vattato, è un Sì, po' è vero, confuso. è vero. vero. È un po' un po'. E poi ci sono, c'è tutta una sezione verso la fine di corni, clarinetti, che però è tutto un po' un seguire, un proseguire di lamenti, un po' una lamentazione. Lamentela. Sì, che, no, che scorre lungo questa terra desolata dove viveva Tchaikovsky, che appunto piena di nebbia. Tra l'altro oggi giornata piena di nebbia anche qua, quindi direi che siamo proprio in tema. E niente, quindi alla fine poi quello che si descrive è un po' un mondo di fiaba, un po' un sogno, perché anche qui la neve, la nebbia è un qualcosa che rimanda anche al misterioso, e poi quello che poi Tchaikovsky descriverà probabilmente anche meglio nei balletti successivi. E le musiche per balletto sicuramente danno un immaginario molto... Tchaikovsky aveva proprio anche molto... appunto e poi è rimasto famoso, in realtà forse anche un po' suo malgrado, per no, il Lago dei Cigni, lo Schiaccianoci, eccetera, che sono poi molto iconiche e hanno questa capacità, lui aveva questa capacità di restituire appunto questo immaginario molto magico, molto sognante, molto fiabesco, e che poi è diventato nel tempo un po' sinonimo anche forse un po' di lezioso, no? Di quella musica classica un pochino, non per noi, più lezioso è... più ci stiamo dentro. Sì, che poi è strano perché era molto legata alla Russia, che realtà, di lezioso aveva ben poco. Eh sì, però in realtà tutto questo immaginario dovuto un po' alle musiche per balletti rispetto ad altri autori, secondo me là un po', boh, almeno da quello che si, no, proprio nella, nel, così, nell'immaginario critico, ecco, no, è un po', rimane un po' appunto così, anche quelli che proprio magari la musica classica, che ne so, non gli piace particolarmente, è difficile non ti piaccia Tchaikovsky, perché è molto amabile in questo senso, cioè sì, molto, è molto fruibile, molto comprensibile rispetto magari ad altri autori un po' più taglienti, magari austeri. Un po' più austeri, più pesi, no, più... Mentre lui aveva questa capacità, il che assolutamente non vuol dire che non fosse una mancasse di profondità, anzi, perché però è stato un po', mi sembra un po' come appunto quando senti sempre appunto Debussy, piuttosto che li leghi un po' a questa, a Chopin, ecco, un altro Chopin, un altro che un po' mi viene da associare, è vero, che già sempre un po' alla malinconia, magari hanno scritto anche altre cose che non, però vengono sempre un po' associati, e Tchaikovsky è un po' così, c'ha questa associazione al fiabesco, un po' perché effettivamente alcuni lavori hanno quell'ispirazione lì. Ma anche perché era una rilettura all'occidentale, un po' volendo anche un po' superficiale, sì, del sì, fiabesco. Anche del mondo della natura, no? Anche un po' idilliaca, come se sì, la fiaba di per sé non avesse invece una gran parte di ombra. Sì, però magari ecco, rispetto a, che ne so, a Stravinsky, già, certo, ecco, si parla ovviamente di più amanti, però... che ne so, rispetto ad altri russi rimane un po', secondo me è un po' legata al balletto questa cosa, del fatto di aver fatto tante musiche per balletto, che ovviamente già ti dà questa idea di superficialmente, poi quando si va a scavare si vede che non è così, però l'idea superficiale è un po' del lezioso, del, no, del... comunque, certo, in Tchaikovsky, non in questo. Oggi abbiamo un collegamento appunto tra due pezzi. In realtà sì, sì. E magari lo diciamo dopo. Ma sì, facciamo questo. Diciamo che è una puntata circolare, ecco, che alla fine ci ricongiungeremo. Vabbè, che classe, guardi. E possiamo anche far finta di averlo fatto apposta. No, diciamolo. Non dovevo dirlo. Io volevo dire che era fatto apposta. No, l'abbiamo fatto molto apposta. Sì. E adesso ci ascoltiamo questo primo brano. Appunto, il secondo movimento della Sinfonia numero 1 in Sol minore, opera 13, Sogni d'inverno di Tchaikovsky, secondo movimento, Terra desolata, terra nebbiosa. Thank you. Eccoci di nuovo qua, Radio Wombat, la fuga del gatto e puntata appunto dedicata all'inverno, un po' invernale effettivamente. La fuga del mezzo inverno. È vero, la mezza fuga dell'inverno, come si può dire? Sì. Allora, da Tchaikovsky andiamo avanti e arriviamo al Winterreise di Schubert, di cui in realtà non vi staremo a raccontare chissà che, perché l'abbiamo già affrontato, ne abbiamo già parlato in una puntata precedente, sì, proprio del Winterreise. Tra l'altro Winterreise è una serie di canzoni di Lieder scritti da Schubert, che ve ne abbiamo fatti ascoltare qualcuno. E poi c'era stata la puntata monotematica di Schubert, in cui addirittura la Mari aveva letto i pezzi tratti dall'autobiografia, dalla biografia, scusate, quindi insomma... Ce n'è di roba, sì. Di Schubert abbiamo ecco. Abbiamo dato. Abbiamo abbastanza dato. Però in una puntata sull'inverno non potevamo non mettere il Winterreise. No, anche perché no. È proprio questo. Qui si passa da una fiaba, come era prima, o perlomeno da un'atmosfera sognante, a un'altra atmosfera fantastica. Perché il Winterreise ha comunque il Winterreise viaggio d'inverno, questo errare, questo vagabondare di questo personaggio che compie questo lungo viaggio all'interno dell'inverno, ma anche evidentemente della sua stessa anima, eccetera, e incontra vari personaggi, incontra cani che lo vogliono mordere, insomma c'è tante peripezie, ma anche questo chiaramente ha un'aria di sogno e di fantastico, ma completamente diversa. Anche infatti anche appunto Schubert è un altro di quelli, insomma, legato un po' si lega spesso così un po' anche alla malinconia, no? Un po' a queste atmosfere un po' cupe, anche se non sempre in realtà appunto è così nella sua produzione, però è un altro insomma di quelli che nell'immaginario rimane un po' un po' al contrario di Tchaikovsky, che invece no? È sempre molto appunto fiabesco e così tintinnante, giocoso. È Schubert invece rimane un po' nel depresso, ecco, sì, cioè, i balletti poi andare, sì, la neve a lui gli metteva male. E quindi, però, insomma, ecco, questa profondità, questa che si rispecchiava poi, insomma, nella sua produzione e nella sua personalità abbastanza particolare, sì, e complessa, come appunto abbiamo scoperto nelle puntate a lui dedicate. E ci ascoltiamo due leader tratti appunto dal Winterreise, il numero 9 e il numero 17. Il numero 9 è Hirlicht e il numero 17 è Himmdorfe, entrambi eseguiti da, cioè cantati da Ian Bostridge, che secondo me rimane proprio, cioè, a mio gusto totalmente personale, è il mio preferito come interprete di Schubert e in particolare del Winterreise. Ce l'ascoltiamo subito, così? Sì, a bomba. Vai. In die tiefsten Felsengründe lockte mich ein Irrlicht hin. Ausgang finde, liegt nicht schwer mir in dem Sinn, liegt nicht schwer mir in dem Sinn. Bin gewohnt, dass wir gehen, es wird ja jeder Weg zum Ziel. Unsere Freuden, unsere Wehen, alles eines Irrlichtsspiel, alles eines Irrlichtsspiel. Durch des Bergstroms trockene Wehen, ich mich hinab. es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, es schlafen die Menschen in ihren Betten. Träumen sich manches, was sie nicht haben, im guten Tagen erlaben. Und morgen früh ist alles zerflossen. Haben ihr Teil genossen und hoffen, was sie noch übrig ließen, doch wieder zu finden, doch wieder zu finden auf ihren Kissen. Mich nur fort, ihr wachen Hunde, lasst mich nicht ruhen in der Schlummerstunde. Ich bin zu Ende mit allen Träumen, was will ich unter den Schleppen säumen, zu Ende mit allen Träumen, was will ich unter den Schleppen säumen. Ecco, abbiamo anche adempiuto all'obbligo di farvi ascoltare l'Interrise. No, che non era un obbligo, però quasi sì. Non ci si poteva esimere veramente da questo. Bene, allora proseguiamo, che qui stanno finendo i pasticcini. Insomma, finiti i pasticcini, no, parti. È difficile trattenermi. Quindi ora arriviamo a un paio di brani che sono quelli che probabilmente, non sono sconosciuti tutt'altro, però ecco, sono in un Italia po' più da esperti, ecco. Sì, dai. E più che altro proprio in Italia non va questa cosa. Stiamo parlando del King Arthur di Harry Purcell. Scusate, e qui ti lascio andare perché non mi posso intromettere. No, ma anche perché una donna della sua ossessione. Anche perché io ho scoperto questi due brani. Vabbè, uno lo conoscevo, l'altro no. Ma comunque ho scoperto il King Arthur tipo a un'ora improbabile della notte. E cioè, ciao, ho proprio detto no, io m'arrendo. Mi si è aperto io un tombino. Alzo le mani perché qui, cioè, sì, no, è bellissimo, cioè, bellissimo, bellissimo, bello, sì. E come tutte le cose belle che piacciono a me, non se ne considera nessuno. Ovvio, facciamoci due domande. Ecco, infatti, ma vabbè. Allora, il King Arthur è una semi-opera in realtà, non è un'opera vera e propria, non nel senso a cui siamo abituati noi. Nonostante, insomma, si parla di fine 600 e quindi, insomma, l'opera già c'era, non è una semiopera perché ancora l'opera non era stata inventata, perché era proprio una forma diversa. Una semiopera in 5 atti, la musica è di appunto Purcell e il libretto di Dryden, fu per la prima volta messa in scena al Queen's Theatre del Dorset Garden di Londra, un teatro tra l'altro che nel 600 era famoso per, poi insomma lo vedremo meglio, questa meraviglia di una combinazione bellissima di scene mobili, aveva tutti questi macchinari, gli scenari che si muovevano, era proprio un teatro fatto apposta per questo tipo di opere che nell'epoca barocca andavano tantissimo. Io perché non sono nata in quell'epoca? Non voglio sempre dire, non so se vi ricordate la puntata sulla mostra di Londra, quella che sono andata alla Pimpa va a Londra, che vi avevo appunto avevo raccontato di, che c'erano le scenografie origini, insomma, ricostruite sulle originali di come si muovevano le prime macchinerie nelle opere di Handel, che c'era l'aria appunto venti e turbini da Handel e c'era proprio la ricostruzione ovviamente del modello del teatro e facevano vedere proprio le prime e appunto questo di cui stai parlando te. Bellissimo, bellissimo. Sì, è nato in quel periodo proprio le prime macchinerie, in realtà esistevano già dal Rinascimento in Italia ovviamente, però diciamo che le prime macchinerie applicate all'opera nascono in quel momento lì, quindi le onde, no? Quello che si vede sempre anche un po' nei film in costume, i primi movimenti di elementi di palco, ecco, e perché appunto la meraviglia, no? Esatto, lo per stupore. Dare il senso dello stupore per stupire. Io evidentemente sono una babbiona, cioè io proprio ci casco in piano, cioè queste cose qui ma a anche me su quelle, cioè proprio io soprattutto su quelle, la roba nuova non mi fa impressione, poi vado a vedere il teatro del 600, guarda il sole che diventa la luna, sì, esatto. Che bello, capito? Esatto. È una roba di generazione, ci si accontentava di poco alla nostra epoca, il virtuale ancora sì, io uguale proprio. E quindi 1691, appunto, quando eravamo giovani noi, nel 1691, ed era appunto questa semiopera del King Arthur, era una combinazione ibrida, appunto, un ibrido tra recitazione, canto, danze e brani invece più strumentali e appunto, come diceva la Virgi, macchinerie, le macchine sceliche, mi piace molto questa cosa, macchinerie. Privatele. Allora, in realtà, anche se si parla di King Arthur, Re Artù, non dovete pensare a Camelot, a tutta la saga, quella roba solita. Là. No, in realtà parlava della nascita della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, attraverso la battaglia, la grande battaglia tra i Bretoni e i Sassoni. E quindi i Bretoni da una parte e i Sassoni dall'altra, e ognuno aveva il suo, come si dice, stuolo, la sua armata anche di personaggi soprannaturali, cioè entrambi gli eserciti avevano dalla loro tutta la loro mitologia al seguito, un tantino shakespeariano, sì per, proprio appena e per esempio ovviamente c'era ogni re, c'erano il re Artù, re dei Britanni, e Osvaldo, il re dei Sassoni, e avevano ognuno un mago a disposizione, ovviamente re Artù aveva Merlino. E avevano questi maghi che si sfidavano e insieme a questi maghi c'erano vari spiriti e vari dei, insomma. E quindi un'opera che in realtà in pieno stile barocco e post-rinascimento in realtà era un'opera fondamentalmente anche piena di mitologia pagana, dove poi insomma in qualche modo quello che viene fuori è che la nascita di una nazione viene da uno scontro di dei pagani, di spiriti, di spiritelli, di magia. Nell'immaginario inglese è sempre un po' così, perché appunto, a proposito, non voglio tornare al sincretismo dell'inizio, però essendo la tradizione appunto pagana, druidica e quindi celtica è stata poi sottomessa, no? Al cristianesimo gli si è proprio appoggiato sopra, loro portato, no? da chi sappiamo, però gli si è proprio appoggiato, però c'è tutta questa cioè, no, tutto questo sottomondo, no, che ha continuato tantissimo a esistere, e quindi poi anche nella letteratura, nell'arte, tutto questo, il mondo pagano, no, ha... Tra l'altro, bello perché anche dal lato dei, vabbè, ti dici, dal lato dei sassoni ci si può aspettare, c'è Thor, ci sono tutti i vari, e vabbè, ma non è che dal lato dei britanni invece c'era Gesù Cristo, No, c'era anzi. Cupido, Venere, tutti i Sì, vari e poi appunto dei. questa cosa della druidica che era molto forte, infatti non a caso in molte riletture di, no, Merlino rappresenta proprio il passato, cioè quando, no, Merlino, Artù, la Tavola, cioè tutti i miti, i primi miti cristiani appunto dei cavalieri, no, il cavaliere no, alla ricerca del Graal, in realtà avevano ancora dentro alla loro storia una parte ancora, è proprio il sincretismo, cioè univano le due anime, quella nuova, tra virgolette, nuova del cristianesimo, della nuova religione, era proprio chiamata così, la nuova religione, e però portavano ancora no, i Dell'antica. segni dell'antica legata alla natura, legata appunto ai druidi, a tutti gli sciamani, alle streghe, anche proprio alle divinità legate alla natu al naturali e al pantheon classico quello. E quindi proprio sì, si sono sovrapposti. Cioè, ora se mi sento uno storico mi viene a cercare, veramente, scusate, ci provo così. No, no, Però per invece. fare veloce, per capirsi, sto semplificando, però è così anche nel Nord Europa, anche in appunto anche tra, no, in tutta la penisola scandinava, dove c'era tutto il loro, no, pantheon molto forte di divinità. Ora non voglio tornare sempre alle solite cose, però Wagner, Ecco. Wagner fece proprio questo nell'opera, cioè volle tornare ai temi che erano della cultura pagana. Tedesca, ecco, poi vabbè, chiaramente la componente del cristianesimo ormai c'era e rimane, però ecco, ci sono tantissime, nella musica è successo spesso che gli autori si facessero ispirare, anche perché o fai canti religiosi o se no ti conviene ispirarti al paganesimo, se Anche no andiamo veramente male, andiamo tristi. perché era un'epoca quella in cui Purcell componeva questa opera, in cui veramente era un'epoca molto turbolenta da un punto di vista anche politico. Tra l'altro, Purcell aveva perso la sua influenza, cioè era stato cacciato da corte, insomma, non era proprio un bel momento. E questo che dicevamo che è una semiopera, che quindi è un po' un ibrido tra le varie cose, lo è anche proprio tecnicamente, perché il canto è affidato fondamentalmente alle presenze sovrannaturali, agli spiriti, agli dèi, le varie figure mitologiche. Mentre invece i protagonisti, quelli Artù, eccetera, loro recitano proprio alla Fanno maniera alla recitando. Shakespeare, per l'appunto, e quindi anche questa è una bellissima commistione, fusa molto bene. Poi tutto il resto viene reso in maniera veramente incredibile da Purcell con la musica, che la musica è il terzo protagonista Certo. fondamentale, è quello che fa poi spiega quello che gli altri non riescono a spiegare. Più o meno la trama è detta proprio, ve la dico anche perché tanto purtroppo credo che non avremo mai il piacere di vederla in Italia, perché raccontavo prima fuori dai microfoni della Virgi che quest'opera è stata portata in scena per la prima volta in tutta la sua storia dopo 300 anni in Italia E lei è stata quest'anno, buona di e io perdersela. l'ho persa. Così. A proposito dell'essere sempre in Tempismo. ritardo, Sì, è tardi, io sono sul noi pezzo siamo il sempre. coniglio di Alice, veramente. E mi sono mangiata molto le mani e non so quando ricapiterà, ecco, perché non è un'opera Non che vedo. considerano, e Mettiti quindi, comoda, ecco. chissà. Insomma, Artù, il re dei Britanni, e Oswald, il re dei Sassoni, aspirano alla mano di Emmeline, perché comunque ci deve essere sempre una storia anche Che fai, non di c'è niente di cuore. romanticismo, Alla dai. mano di Emmeline, che è la figlia del duca di Cornovaglia. Dopo aver perso una battaglia decisiva contro i britanni, Oswald rapisce Emmeline, ha detto vabbè, rifacciamoci, e tenta invano di ottenerne i favori. Intanto Arthur riesce a resistere alle seduzioni di due sirene e si libera dagli incantesimi di cui era vittima. E certo, perché succede di tutto. Le sirene, faccio le metti le sirene. Il giorno di San Giorgio si svolge il combattimento decisivo tra i due rivali. Il mago Osmond, che è appunto il mago della fazione dei Sassoni, e lo spirito, insieme anche al mago Osmond, e insieme allo spirito della terra Grimbald. Insieme sostengono Oswald, ovviamente, mentre Merlino e lo spirito dell'aria Filidel sostengono Arthur e i Britanni. Qui c'è un po' proprio c'è proprio le fazioni, gli eroi. L'ultimo atto è dello scontro tra le due armate. Arthur affronta Oswald in un duello e, dopo averlo disarmato, lo risparmia. Emmeline sposa il vincitore, ovviamente, quindi sono i bretoni. E Merlino fa sorgere dal mare le isole britanniche. E infatti qui alla fine della fiera quello che esce è la nascita della nazione, appunto, in un momento molto politicamente molto convulso, dove Parcel era proprio in un momento di caos, doveva un attimo anche capire qual era il suo ruolo, il mutamento che aveva subito il suo ruolo a corte e nella società tutta. Il momento un po' più importante è l'atto terzo di tutta l'opera, che spesso in realtà è stato rappresentato da solo, perché tutta l'intera opera raramente è stata rappresentata, ma questo pezzettino invece un po' di più, che poi rimase famosissimo poi per tutto il Settecento, e in realtà è stato anche qualcosa che ha influenzato moltissimo la musica dei secoli a venire. È il momento in cui Emmeline respinge l'attenzione di Osmond e il mago fa una dimostrazione dei propri poteri evocando una scena invernale, perché sennò qui fino adesso non si capiva cosa c'entrava con l'inverno. Ora ve lo spiego. Appunto, il mago Osmond evoca l'inverno, e nella scena successiva Cupido risveglia il calore delle passioni negli abitanti di un mondo ghiacciato. Quindi fondamentalmente quello che fa Cupido è riscaldare e sconfiggere in qualche modo l'inverno evocato per magia da... con la passione. Esatto. Chiamato da Cupido, il genio del freddo canta un'aria che è quella che poi ci sentiremo, un'aria cromatica bellissima, incredibile, che si chiama What Power Has To, in cui i brividi sono resi dai tremoli, cioè è un'aria praticamente composta solo dal tremolo. Lo sentirete, sono tutte crome, e la voce esegue questa composizione veramente strana e bizzarra, probabilmente ispirata a un coro di Lully, che faceva parte, era un coro all'interno di un'opera di Lully che era Isis del 1677, che effettivamente molto simile, ma io continuo a essere di parte e preferire di brutto quella di Parcel. Chiaro. E poi altra, e ora ci ascolteremo questo coro bellissimo, ma prima vi faccio sentire anche l'altra canzone, la famosa Cold Song, l'area del freddo, che anche questa è un altro tipo di tremolo. In entrambi i brani c'è proprio questa sensazione del tremito per il freddo, i brividi di freddo, che viene resa, però lo sentirete proprio a livello musicale in maniera magistrale. C'è un tema iniziale, insomma, lo sentirete, che poi viene ripetuto e che evoca un po' il ghiaccio e un po', insomma, un po' tutta la sensazione di freddo. E chiaramente questo freddo qui era un freddo che non era soltanto un freddo fisico, ma era un freddo metaforico, dell'anima. E questo, insomma, freddo della situazione, era chiaro, freddina. Poi era quando dice ad essere freddo, insomma. Ecco, infatti lo sanno anche loro. Non a caso poi questo brano, The Cold Song, in realtà è stato cantato, e noi facciamo ascoltare un'interpretazione non proprio canonica, come dire, perché ci ascoltiamo l'interpretazione di Klaus Nomi, che in realtà è un personaggio meraviglioso, ma che non è noto ai più per le interpretazioni classiche, ecco, diciamo, era fondamentalmente un controtenore, però in realtà non era proprio, non aveva un repertorio, almeno non solo classico. Ma noi ci ascoltiamo questa versione, che quindi non è esattamente filologica, ma secondo però, me è bellissima. Sì, è veramente una versione interessante. Tra l'altro, se siete invasati come me, vi consiglio di andare a vedere, anche ci sono molti live su YouTube, si trovano, di Klaus Nomi, che truccato da Pierrot canta quest'aria, è veramente molto bella. Quindi in sequenza, prima ci ascoltiamo sempre tu, entrambe dal King Arthur di Harry Purcell, prima What Power Are Two, anche detta Cold Song, e a seguire il Chorus of Cold People, See We Assemble, che è come si dice veramente. Thank you. Brrr. No? Freddo. Brrr. Bello, bellissimo, bellissimissimo. No, pazzesca. Sì, a me questa cosa, cioè io ce l'avevo la bocca aperta dall'inizio alla fine. Stupendo. Proprio. Chapeau, chapeau. E tra l'altro, l'altra cosa che non avevo detto del call song è che tecnicamente è una delle aree, penso, più difficili, perché è tutto diaframma, sono tutte botte di diaframma, una roba. L'esecuzione. E bellissima. Anche tecnicamente veramente. E poi dava proprio l'idea del, appunto, del tremolio, no? del freddo, del cioè ti dà proprio l'idea. Sì. Ti restituisce proprio la sensazione fisica del tremore, del freddo, è bella. Esatto, esatto. Bello. Sì, cioè, riesce veramente a arrivarti addosso molto, subito. Molto bello. Va bene, ci resta un ultimo ascolto per la puntata di oggi, freddolosa, che ora cambiamo completamente e andiamo ad Offenbach. Giusto? Sì, sì, sì, proseguiamo e andiamo appunto in realtà a concludere questo cerchio che avevamo appunto aperto all'inizio, perché il titolo di questa, della nostra prossima ascolto, del nostro ultimo ascolto, è Il balletto dei fiocchi di neve. Allora, cioè, è Il balletto dei fiocchi di neve, detto in italiano, in realtà è un'opera francese, per cui sarebbe ve lo volevo dire in francese, mi sono un attimo persa. Le ballette, non lo so, che non le riesco a leggere. Cioè, me l'ho segnato. De Flocons, oddio, è vero, difficilissimo. Ora appena mi rifiglio. Flossons. Sono stata qui con l'appunto pronto, ovviamente l'ho persa all'ultimo. Dai, ci avrà una sediglia, quindi si dirà De Flocons. Sì, sì, sicuramente. De Neige. De Neige. In realtà, appunto, il problema è che siccome c'è un pezzo di Tchaikovsky all'interno dello schiaccianoci, come dicevamo prima, che si chiama la danza dei fiocchi di neve, ed è un passaggio bellissimo in cui tutte le ballerine rappresentano i fiocchi di neve e hanno questa coreografia tutta coordinata in modo che sembri proprio il movimento dei fiocchi, è stupendo. Però si chiama appunto il passaggio del balletto, si chiama Il balletto dei fiocchi di neve all'interno dello schiaccianoci di Tchaikovsky. Quindi quando si va a cercare, si fa una ricerca, si trova sempre il rimando a Il balletto dei fiocchi di neve di Tchaikovsky. In realtà, e c'è appunto anche il rimando alla nostra prima pezzo, quindi alla nostro, quindi alla, appunto, al pezzo di apertura con cui abbiamo aperto, che era di Tchaikovsky. In realtà in inglese, appunto, insomma, trovandolo, traducendolo all'inglese, The Ballet of the Snowflake è una parte di un'operetta di Offenbach, che fondamentalmente è il viaggio parla di un viaggio sulla luna. Quindi è anche qui un estratto, però non c'è nulla c'entra con il tema di Tchaikovsky, cioè è un'altra cosa. Appunto, A Trip to the Moon, Il viaggio sulla luna, è si chiama in francese un'opera ferice, cioè un'opera fatata, un'opera di fantasia, in 4 atti e 23 scene di Offenbach, ed è tratta proprio dal Viaggio sulla luna di Verne. Quindi è proprio un'altra, non ha un'ambientazione così fiabesca, ma più è più letteraria, appunto. Nasce quasi fantascienza, fantascientifica. Beh, non quasi. Insomma, la la fantascienza steampunk di Verne. Il libretto francese era di insomma, tale Albert Vallot, e debuttò nel 1875 al Teatro della Gaieté. Allora, diciamo che ci sono appunto tantissime informazioni, perché in realtà appunto ora magari non in Italia, però è un'opera, un'operetta che poi è rimasta piuttosto famosa, insomma, nella storia della produzione di Offenbach. Anche questa viene proprio scandita tratta proprio dal libro, cioè viene presa proprio chiaramente il racconto di Verne è lungo, però vengono presi proprio degli estratti, cioè proprio le scene sono proprio appunto l'arrivo sulla luna, il palazzo di vetro, e quindi c'è, cioè, proprio tratti dai capitoli, insomma, direttamente dai capitoli, quindi fortemente legata al letterario. Questo, quindi, diciamo che si può, appunto, sì, ha un questa parte del balletto dei fiocchi di neve è uno degli estratti più noti, forse, e forse anche una delle parti più belle. Sì. Ed ha appunto questa ambientazione, credo tu l'abbia scelta appunto per il rimando all'inverno, ovviamente, a questo momento di freddo. In realtà è legato alla temperatura, perché più che alla neve sulla terra, cioè a un certo punto nel passaggio del racconto, si ritrovano appunto in questa landa freddissima, la temperatura appunto sulla luna è, perché chiaramente è molto più fredda, e quindi in realtà si parla di un freddo su un altro pianeta. Certo, diciamo, infatti non sono le stagioni, ecco, in quel caso non è infatti l'inverno. Molto interessante, perché appunto Offenbach aveva questo immaginario molto molto eccentrico, insomma, aveva questa immaginazione molto molto viva. Spesso prendeva appunto, gli piaceva trarre dalla letteratura, da insomma ispirazioni più o meno fantascientifiche, fantasiose. Ed è una componente, infatti, del suo, insomma, del suo comporre. Ecco, in questo senso, appunto, la musica ci restituisce, il passaggio ci restituisce questo mondo, appunto, altro, questo paesaggio lunare e freddo, appunto, però, appunto, è un freddo legato più allo spazio, all'assenza all'allontananza dal sole, più che appunto al freddo classico, insomma, alla neve, al freddo della terra. Tanti tipi di freddo, non c'è solo il nostro freddo. Ma sempre freddo è. Soprattutto nella Wombat Caverna. Esatto, ed è uno dei, appunto, dei pezzi che si mettono sempre, in realtà, ispirati all'inverno, ecco, perché la temperatura della luna, appunto, che lo raccontano, scende sotto i 50 gradi, e c'è questo grandissimo balletto dei fiocchi di neve, che però, come vi raccontavo, è appunto un'invenzione teatrale, no? C'è questo balletto dei fiocchi di neve, però appunto sulla luna è, cioè, applicato a un altro mondo, per cui diverso da quello. Secondo me ci vorrebbe un film di Méliès. Sì, ma infatti Méliès viene da qui, non a caso, vecchio Verne ha ispirato molti. Che bello. Per cui anche qui è un balletto, come vi dicevo, una scena di balletto, però diversa dall'ambientazione romantica di quello di Tchaikovsky. Ecco, quindi è interessante, insomma, è stato il doppio, insomma, lo stesso titolo per due ambientazioni diverse, e che però appunto rimandano tutte e due al freddo. Bene, e allora io direi che ce lo ascoltiamo, sono circa 11 minuti, poco meno, quindi un ascolto un po' più lungo rispetto a quegli ultimi che vi avevamo proposto, e con questo vi darei anche il saluto non solo a questo punto di fine puntata, ma anche di fine anno. Quindi vi facciamo i nostri carissimi questa auguri. Questa è l'ultima puntata dell'anno, a questo punto con il gatto, nell'anno del The Year of the Cat, si spera il prossimo sia veramente l'anno del gatto, perché non so se lo è, però sarebbe bello. Ma per noi lo è sempre. E vi ricordo anche i social Wombat, wombat.noblogs.org, il sito e la casella di posta, apposta wombat@insiberia.net, e la nostra frequenza in onde mediocri 1359 AM. Se siete così fortunelli e fortunelle da essere raggiunti dal nostro segnale, vi salutiamo, quindi vi lasciamo nelle sapienti mani di Offenbach e Voyage dans la Lune, Ballet des Flocons de Neige. E magari, chissà, il prossimo anno, nelle prime puntate, potremmo appunto parlare di Offenbach, perché è veramente interessante. L'abbiamo un po' zompato. Non l'abbiamo zompato, invece una quantità di operette, di ispirazioni veramente, veramente fantasiose. C'è un sacco di cose di Offenbach veramente belle, e tutti si ricordano solo il cancan, no, infatti, poraccio. Cioè, veramente poraccio, ma veramente. Infatti per il 2019 abbiamo grandi sorprese in serbo per voi, quindi rimanete ricchi, premi e cotillon, e buona fine e buon inizio, e a presto, ciao ciao ciao a tutti. Thank you.